Non sono una persona equilibrata ed ho l'anima sdoppiata che ogni tanto viene su. E giro con un Joker per amico, non so più quel che dico, ma non mi importa più. Non so più quel che dico.